Pronto Massimo? Pronto? Ehi, ciao, ciao, riusciamo a sentirti finalmente. Tu ci senti? Ti sento in diretta da Piazza Duomo. Oh, perfetto, Piazza Duomo, immagino a Milano. Esatto. Allora, Massimo, parlavo appunto di te perché, insomma, ti sono stati dedicati abbastanza articoli, ti abbiamo visto nel telegiornale su Rai 3 e, insomma, sappiamo che sei stato invitato più volte ospite di numerose trasmissioni come Anno Zero. Spiegaci un pochettino, allora, stiamo leggendo, anzi leggeremo subito dopo la tua telefonata, l'articolo del Fatto Quotidiano scritto da Alessandra Sestito che parla appunto di te, sentito da Terroni e Polentoni uniti per la legalità. Tu Esatto. sei, insomma, sei il coordinatore del regionale del Movimento Matrici Lutti in Lombardia. Perché la Lombardia si occupa di antimafia? Beh, diciamo che la domanda è perché non dovrebbe occuparsene, visto che mentre voi in Sicilia sapete solo cosa nostra, noi qua abbiamo a che fare con cosa nostra, Spidda, 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ci aggiungiamo le mafie straniere. Non occuparsene sarebbe deleterio, quindi la domanda la rigiro al contrario. Beh, sai, c'è stata la polemica di Formigoni che ha detto che se l'è presa con Vendola, il quale diceva che ha detto che la Lombardia è la regione più mafiosa d'Italia, mentre Formigoni, insomma, si è molto risentito di questa cosa, perché il governatore della Lombardia dovrebbe risentirsi di una verità che voi stessi ragazzi comunque state affrontando. Beh, su questo diciamo che invece rispetto a voi siamo indietro, quindi mentre siamo avanti nell'avere tutte le mafie, rispetto alla Sicilia siamo molto indietro e purtroppo molti politici, non soltanto Formigoni, anche è stato il prefetto di Milano, è stato il prefetto di Lodi. Oggi sentivo un'intervista in cui lo stesso sindaco di Busto Arsizio, nonostante le varie inchieste e nonostante la nostra manifestazione, abbia detto che in realtà non c'è la mafia a Busto Arsizio, ma c'è un tentativo della mafia di appropriarsi di Busto Arsizio. Purtroppo i politici ancora tendono a tenere lontana questa idea, forse perché pensano che i cittadini lombardi si possano spaventare troppo o possano non rivotarli perché possono dare a loro la colpa della presenza della mafia in Lombardia. Non so dirti la motivazione, sta di fatto che mentre abbiamo una classe dirigente che appunto si nasconde dietro il dito e dice che non è presente, il problema è che abbiamo commercianti che subiscono il pizzo, abbiamo imprese edili e imprenditori che sono costretti a vendere parte di quote di società alla mafia, ci sono sequestri di persona che avvengono ancora oggi per poi chiedere praticamente favori in cambio, insomma è tutta quella mafia che leggiamo e studiamo sui libri di storia, ce la ritroviamo anche noi nelle Esatto, poi tra nostre terre. l'altro tu sei di Busto Arsizio e nella tua città sono stati arrestati tra l'altro 5 presunti componenti del clan Madorina di Gela. Esatto, Busto Cioè. Arsizio sulle carte della DIA dal 2007, quelle che io leggo dal 2007, viene chiamata esattamente Gela 2. Tra l'altro ben sapete voi che a Gela è presente appunto sia Stidda che Cosa Nostra e anche a Busto Arsizio sono presenti entrambe, solo che invece di farsi la guerra si spartiscono il territorio e se lo Esatto. spartiscono con il locale di 'Ndrangheta di Legnano Lonato Pozzolo, che sono i due paesi che stanno a fianco di Busto Arsizio. Dove si sta svolgendo anche il processo? Bad Boys. Processo in corso, sì, esatto, Bad Boys. Ma invece dimmi, ammazzereci tutti, come si. Cosa fa in Lombardia? Matrici Tutti appunto a parte nel 2007 il suo lavoro in Lombardia e si concentra soprattutto nelle scuole, quindi cominciare, visto che gli adulti non vogliono prendere coscienza del fenomeno, a farlo prendere ai ragazzi, e quindi scuole medie, superiori che si incontrano, che fanno gli incontri con noi, fanno gli incontri con politici, con giornalisti, con magistrati, con esponenti della società civile che combattono il fenomeno mafioso e che cercano di spiegare a questi ragazzi che cosa sia la mafia, proprio per poterla riconoscere e prevenire. E poi, naturalmente, oltre all'ambito e all'aspetto con gli studenti, c'è quello con tutta la cittadinanza. Questo più che altro per far capire a chi invece lo subisce il fenomeno, perché purtroppo appunto c'è, che se ne incomincia a parlare, quindi non si deve sentire solo, non deve aver paura di denunciare, ma magari dargli quel coraggio per riuscire a tirarsene fuori. Esatto. E, tra l'altro con gli studenti voi state organizzando tantissime iniziative. E, se non sbaglio, l'11 aprile avete organizzato anche un'iniziativa a Busto Arsizio. Legal Italia in primavera, sì. Da 4 anni Legal Italia si è svolta a Reggio Calabria, al ricordo della morte del giudice Antonino Scoppellitti il 9 agosto. per la prima volta abbiamo voluto esportare questo modello, e quindi invece che richiamare tutti i giovani d'Italia a Reggio Calabria, spostare al nord questo appuntamento e quindi far diventare Lega d'Italia davvero un circuito nazionale, incominciare perlomeno a farlo diventare un circuito nazionale. Quindi l'11 aprile si sono ritrovati 3500 studenti di Busto Arsizio, erano coinvolte tutte le scuole statali di Busto e erano praticamente divisi in 9 teatri che affrontavano i vari temi che coinvolgono la criminalità organizzata, quindi la mafia e la politica. È venuto l'onorevole Lumia e l'onorevole Crocetta, che per la prima volta appunto da Gela è venuto a Busto Arsizio, quindi a trovare quello che è un distaccamento, diciamo, della società, visto che ci sono 13.000 gelesi presenti a Busto Arsizio. Poi abbiamo affrontato altri temi come il racket, l'usura, i media, quindi il problema dell'informazione nella lotta alla mafia, il problema dei familiari delle vittime di mafia. Insomma, abbiamo affrontato tutti i vari problemi divisi in questi 9 teatri. E poi invece alla fine di questi incontri, questi dibattiti che gli studenti hanno avuto con gli esperti, è esplosa la manifestazione per le strade di Busto, quindi i 9 teatri sono diventati 9 cortei che si sono uniti in un unico grande corteo fino al palco finale di Lega d'Italia in primavera. Bellissimo. Ma voi sarete, Amatrice Tutti, sarà presente il 9 maggio a Cinisi per ricordare la morte del Pietro? Stiamo lavorando per poter essere presenti. Alla Lombardia purtroppo sarà difficile, più che altro perché abbiamo già altre richieste di presenza qui in Lombardia. Da Reggio Calabria credo che insomma qualcosa si muoverà. E insomma, in questo momento tu dove ti trovi? Cosa stai facendo? Io sono appena uscito da una conferenza stampa, perché personalmente seguo anche un giornale universitario che si chiama Vulcano Statale e stiamo seguendo la campagna elettorale dei vari candidati sindaci di Milano, e quindi siamo appena usciti da una conferenza stampa di Pisapia. Come ti sembra Pisapia per Milano? Ma lo puoi dire, tanto quasi in Sicilia, non influiamo. La volontà sembra buona, è stato, devo dire, molto modesto, ha ascoltato parecchio, sembrava davvero volersi confrontare con i cittadini e non soltanto dare la sua di opinione, ma voleva ascoltare quella degli altri, quindi l'impressione è buona. Ora vediamo i cittadini milanesi come risponderanno. Io non ho quest'onere non votando a Milano, diciamo. Quindi non sei lì come ambasserici tutti, diciamo. Assolutamente no. Ho capito. Massimo, noi ti ringraziamo del tuo tempo. Grazie. Che hai dedicato, ti manderemo l'intervista sicuramente. Grazie, ti saluta Radio Centrale e l'Onda in Onda. Un abbraccio a voi. Ciao. Ciao ciao ciao ciao. Bene, appunto, se volete leggere l'articolo scritto appunto sul Fatto Quotidiano